sta voce mia, sì, sta voce che scende in la nottata, mentre t'abbraccio o spose due vicine, state scedate, si vuoi sta scedate, ma va a vedere che dorma sua neghina. Canta dintro cuore, quello che non te cerca e non te dica, tutto dormiente e non lontana. E a stessa voce.